buona giornata a tutti gli ascoltatori di Radio Big World. Questa è la prima puntata di una serie che è intitolata Mescolare acqua e vino. Non è a carattere gastronomico come potrebbe apparire al primo impatto, ma è una puntata che ragiona dell'ambito sociale. Io sono Pasquale e ci sentiremo in seguito se per voi sarà gradevole partecipare alle riflessioni e alla conversazione che io intendo fare, e vengo subito, come si dice, al sodo. Mescolare acqua e vino, secondo me, in maniera allegorica o metaforica, significa che se qualcuno, qualcosa, qualche mondo, qualche elemento rimane isolato da tutto il resto, non è qualcosa di gradevole, ma è qualcosa che può essere valido, importante, essenziale, ma non è molto gradevole, perché la vita di ciascuno di noi è una ricerca di gradevolezze. Allora io credo che per avere più gradevolezza possibile nel nostro quotidiano bisogna mescolare acqua e vino, cioè trovare gli aspetti interessanti, quelli un po' più critici, quelli luminosi, quelli opachi, e mescolare. Così è fatta la vita delle persone. Quindi, davanti a questa legge naturale che la vita delle persone è fatta di alti e bassi, di chiari e scuri, di acqua e vino mescolati, è derivato il titolo del programma. E subito vi voglio dire una cosa che per me è utile come argomento da riflettere. Quando si nasce soli, poi si vive, quando si muore soli. Questo lasso di tempo che è la vita su questo pianeta comincia con la solitudine e finisce con la solitudine. A parer mio, questo qui sta a significare che il filo rosso, il filo conduttore, l'interpretazione della vita di ogni persona si deve rifare ai due estremi, la nascita e la morte, e alla solitudine. Ogni persona è una persona sola che agisce per rendere la propria solitudine vantaggiosa e non pesante, e per fare questo ha bisogno continuamente di incontrarsi con quello che la circonda, cominciando dalla natura, andando poi nella tecnologia, andando poi al rapporto umano che è fatto di una risata, è fatto di un caffè insieme, è fatto di un abbraccio nel momento di dolore, è fatto dalle cose che sappiamo tutti. Ecco, per vivere bene in maniera gradevole bisogna riconoscere che ciascuno di noi è una monade, se si può fare da spocchiosi, va bene così. Comunque ognuno di noi è sicuramente una persona che ha le sue caratteristiche e ha bisogno, per sviluppare le sue caratteristiche che gli renderanno la vita gradevole, di essere inserito in vari gruppi. E qui, per esempio, si può aprire il discorso del lavoro, che sicuramente ci mette in comunicazione con le altre persone. Non è la cosa più bella che può esistere, il lavoro, però è necessario per avere quei due soldi in tasca che ci rendono la vita un pochino più gradevole. Comunque bisogna, è necessario, dalla situazione in cui si vive, dalla situazione civile in cui si vive, è necessario essere in relazione con gli altri. Per esempio, vi confido un mio pensiero che non è continuo, ma che avviene di tanto in tanto. Io utilizzo la macchina un po' come tutti gli italiani, per necessità, qualche volta per piacere. Non mi piace guidare la macchina, però l'utilizzo. E quando parto dalla macchina che era in sosta, pigio la frizione, l'acceleratore, lascio la frizione e tra me e me per un attimo penso: ma se quell'ingegnere che ha inventato la frizione, o quel gruppo che ha creato il motore, o lo studioso che ha equilibrato l'acceleratore della macchina con il peso dell'automobile, eccetera, non esistessero, come farei? Andare a fare la spesa? E allora in quel momento mi sento inserito veramente in un gruppo, in una comunità, e so di non poterne fare a meno di essere inserito in questa comunità, perché per attuare un'esigenza personale, quella di prendere la macchina per andare a fare la spesa e poi poter mangiare quello che ho acquistato, per attuare questa esigenza è indispensabile la collaborazione degli altri. Quando poi arrivo al supermercato è ancora più evidente che il mio esistere, se vuole essere equilibrato, tranquillo, ha bisogno delle mele coltivate nella Val di Non, ha bisogno delle carote prodotte dal contadino che abita nel Valdarno, ha bisogno del coscio di pollo, a chi piace, è giallo, allevato nel Valdarno, o della fettina o della bistecca alla fiorentina che viene dalla Val di Chiana. Allora, per fare la mia spesa mi rendo conto che per il mio benessere, per realizzare quello sviluppo di cui dicevo prima, gradevole, solitario, unico, come si riscontra nel momento della vita e nel momento della morte, ho bisogno di tante persone che vivono intorno a me e con le quali anch'io devo collaborare. Vi saluto, vi ringrazio dell'ascolto e criticatemi. Ciao, buona giornata.